Giovedì 17 novembre si terrà il quarto incontro di N-World, Traiettorie nella galassia afroamericana, e sono qui per parlarne con Carlo Babando, giornalista e scrittore. Buongiorno Carlo e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao Rachele, grazie, ciao a tutti. Dicevamo, appunto, questo giovedì verrà presentato, ci sarà anzi il quarto incontro di N-World in cui verrà presentato un libro, in specifico il libro Parlare d'Africa, 50 parole chiave. Ti va, Carlo, di raccontarci di che cosa parla questo libro che poi appunto presenterai anche tu? Sì, abbiamo scelto proprio Parlare d'Africa di Luca Jourdan e Karin Pallavere proprio perché è un libro che secondo noi, che abbiamo curato la rassegna che ormai dura da quasi 2 anni e che continuerà se va tutto bene anche il prossimo anno, è il libro perfetto per connettere la cultura africana a quella europea e a quella afroamericana. Nello specifico parleremo con Karin Pallavere, che è stata la mia correlatrice quando ho scritto la mia tesi universitaria, che poi è in parte diventata il mio secondo libro, che si intitola Blackness e che si proponeva proprio di connettere l'universo africano a quello afroamericano attraverso a volte dei percorsi inusuali. Nello specifico Parlare d'Africa si muove attraverso 50 parole chiave che aiutano tantissimo, secondo me, proprio ad abbattere quelle semplificazioni a cui a volte anche, mi viene da dire, inevitabilmente siamo costretti ad arrenderci, magari attraverso il cinema piuttosto che la musica. È proprio quello che vogliamo fare giovedì 17, cioè chiacchierare con un africanista a proposito di Africa, che è una cosa che capita purtroppo poco di frequente. Senti Carlo, ti va di farci magari anche rapidamente un esempio di qualche parola che appunto è contenuta all'interno di questo libro, Parlare d'Africa? Guarda, in realtà le 50 parole, io, cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo libro è che in qualche modo sono collegate l'una all'altra, cioè si passa dal parlare di etnie e tribù, e adesso a me viene in mente che da poco è uscito il secondo film dedicato a Black Panther, in cui spesso anche la Marvel ha cominciato a parlare di queste cose in maniera appunto a volte un po' troppo ingenua, ma allo stesso tempo si parla di colonizzazione e decolonizzazione, quindi legandoci in maniera molto stretta alla storiografia, è in via quasi, come dire, è come se fosse tutto collegato inevitabilmente anche alla musica, mi viene da dire, anche se Karin e Luca non ne hanno scritto nel libro, mai come adesso nell'hip hop, nel cosiddetto conscious rap, si parla di colonizzazione e decolonizzazione. Secondo me fare riferimento a un libro come Parlare d'Africa è praticamente la giusta e forse la perfetta via per capire anche cosa ci sta dicendo la cultura afroamericana, ma nel libro si parla anche di negritudine. Esempio, io prima ti citavo il mio libro Blackness, che a volte è una parola che a volte viene tradotta con negritudine, ma che ha significati totalmente diversi dal punto di vista culturale afroamericano e storico. Parliamo di africanisti, che è diverso per dire da questo concetto come nella storia europea. Quindi sono parole legate l'una all'altra, a volte sono parole triste come genocidio, a volte parole importantissime e poco sondate come donne, per esempio, altre parole difficili come cristianesimo e chiese africane. Sarete, come dicevi anche tu prima, appunto tu e Karin presenti al dibattito che si svolgerà insomma in contemporanea alla presentazione del libro, quindi chiacchiererete un po' insieme. Sì, chiacchiereremo cercando appunto di muoverci tra questi due mondi. In questo caso l'Istituto Parri si muove insieme alla biblioteca Amilcar Cabral ed è un tentativo di unire realtà affini che secondo noi potrebbero insieme dare vita a delle cose molto belle. Nello specifico per quanto riguarda l'Istituto Parri, l'idea di N-World è venuta a me insieme a Roberto Lanzarini, e per questo che stiamo continuando dopo aver parlato attraverso gli altri appuntamenti di musica, cinema, afroamericano, probabilmente ci posteremo più avanti addirittura a parlare di sport, muovendoci sempre in questo modo, cioè nel caso specifico di giovedì saremo io e Karin a chiacchierare, e è già successo con Giacomo Manzoli per quanto riguarda il cinema, la Poker Slayer, Amirissa per quanto riguarda la musica, c'è stata anche musica dal vivo l'anno scorso, così vorremmo continuare anche parlando magari di sport. Sono tanti gli argomenti affrontabili con questa rassegna e vorremmo riuscire pian piano a coprirli tutti, perché abbiamo tanta voglia di raccontare questa galassia afroamericana in maniera non scontata. Perfetto, Carlo, io ti ringrazio. Ricordo ancora una volta questo giovedì 17 novembre alle 18:30, appunto all'Istituto Storico Parri, ci sarà la presentazione del libro con te presente. Grazie ancora. Grazie a te.